parlo in macchina a scopare, per chi calpesta i morti, per chi grida canti vecchi e sepolti, e quelli che se li canti sono vivi ancora, quelli che se li canti sono vivi ancora. Qualcuno diceva, siamo noi la storia, siamo quelli che la dimenticano a memoria, siamo quelli che la dimenticano a memoria. Ora l'orizzontale, il vicino a camminare sulle cose senza starci a badare, e non sentirsi minacciati da un programma di merda, dalle veline, dai politici buffoni, dai amici pochi.